30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Un milione di ivoriani senza casa, senza cibo e in condizioni igieniche disastrose. La denuncia delle Nazioni Unite all'indomani della caduta dell'ex presidente Laurent Gbagbo. Nella capitale economica della Costa d'Avorio, Abidjan, gli sfollati sono 130.000, mentre nel resto del paese quasi 800.000. Nella vicina Liberia si sono ammassati almeno 130.000 rifugiati scappati dagli scontri delle ultime settimane. Ad Abidjan, città di 5 milioni di abitanti, dove si sono concentrati gli scontri, intere quartieri sono senza elettricità né rifornimenti alimentari. Per Valeria Moss, responsabile degli affari umanitari dell'ONU, sono necessari circa 300 milioni di dollari e ad oggi, dice, ne abbiamo raccolti solamente 57, cioè il 15% di ciò che serve. Ancora buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Sarà dunque una Pasqua molto amara, quella di Abidjan, la capitale economica della Costa d'Avorio. Dunque, nel paese del cacao, la Costa d'Avorio infatti è il primo produttore mondiale della materia prima del cioccolato, sembra essersi chiuso il decennio di Laurent Gbagbo, il presidente che non voleva mollare il potere, l'uomo che si definisce una vittima del neocolonialismo e che viene invece accusato di avere alimentato le divisioni etniche e tribali per mantenersi un decennio al potere. Perse le elezioni di novembre, Laurent Gbagbo si era rifiutato di cedere dunque al rivale Alassane Ouattara, economista con un passato di dirigente al Fondo Monetario Internazionale. Solo all'inizio di questa settimana un intervento militare diretto degli uomini del contingente francese Licorne ha costretto Gbagbo alla resa. Ad Abidjan abbiamo raggiunto Giancarlo Rizzo, ambasciatore italiano in Costa d'Avorio. Da lunedì alle 13 all'incirca, con l'arresto di Gbagbo, sono venuti meno i maggiori punti di confronto tra le forze. Facendo un'interpretazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la 1975, per evitare l'uso di armi pesanti nei confronti della popolazione, è stato presa la residenza in cui in un bunker c'era il Gbagbo, il quale adesso, detto tra parentesi, è sotto protezione delle Nazioni Unite, appunto in una cittadina del nord non meglio identificata. Da allora ovviamente gli scontri, che erano piuttosto violenti, indubbiamente l'attività bellica, diciamo così, è molto scemata. Adesso si tratta di alcune sacche che ci sono di resistenza ancora, di persone che oltretutto, ad esempio, per dirle una, non credono che ciò sia avvenuto, loro non pensano, non credono, anche perché, come può facilmente immaginare, il sistema delle informazioni è del tutto crollato. Adesso indubbiamente ci sono intorno a dei posti che erano delle roccaforti del presidente Gbagbo, ci sono ancora così delle schermaglie e soprattutto adesso quelle che erano i suoi sostenitori, quali erano a difesa del presidente, adesso si sono sparsi nella città, quindi occorrerà fare un'opera di polizia per tentare di mettere questa città in sicurezza, che di cui ne ha un estremo bisogno, perché vi ricordo che ormai sono diverse settimane che le persone sono rinchiuse in casa, non c'è acqua, non c'è elettricità in alcune aree e non ci sono viveri perché i negozi sono tutti chiusi. Adesso mi dicono che qualcuno sta incominciando a riaprire. Come si riesce in questi giorni a sopravvivere per chi appunto fa i conti quotidiani col dovere riempire la pancia di famiglie, figli e così via? Con enormi difficoltà, grandissime difficoltà. L'Africa è uno dei continenti che si urbanizza più velocemente degli altri, anche perché soltanto nelle grandi città si possono usufruire di educazione, di la televisione, perché poi passata Abidjan, fatti 20 chilometri fuori, si è nell'immaginario collettivo del villaggio con le capanne. Questa è anche la Costa d'Avorio, nonostante la Costa d'Avorio è il motore economico ma anche politico dell'era. del West Africa e di una organizzazione, l'UMOA si chiama, l'Unione Monetaria dell'Africa dell'Ovest, che il 40% è rappresentata dalla Costa d'Avorio. In Costa d'Avorio ci sono più di 5-6 milioni di stranieri, burkinabè, maliani del Mali, voglio dire, senegalesi, ghanesi, che erano venuti qui a lavorare, mauritani. Quindi il problema, come è accaduto in questi ultimi 3 o 4 mesi, il problema della Costa d'Avorio non è soltanto un problema della Costa d'Avorio, è un problema di tutta la regione. Io le ricordo che la maggior parte delle importazioni e delle esportazioni, per esempio del Mali, del Burkina Faso in particolare, del Niger, passa attraverso il porto di Abidjan. Per cui quando noi, come anche come Unione Europea, abbiamo messo delle sanzioni ai porti, per cui per evitare che il regime Gbagbo si avvantaggiasse delle esportazioni del cacao e del caffè, questo ha colpito non soltanto la Costa d'Avorio, ma l'intera regione. Una volta non si parlava di nordisti e di sudisti, non si parlava di cristiani e di musulmani, così canta Tiken Fakoly in questo brano di grandissimo successo. Racconta: l'esercito è diviso, divisi sono gli studenti, divisa la società, divise sono persino le donne al mercato che di politica non si erano mai occupate. In questa parte sentiamo un altro racconto, un racconto che ci porta lontano da Abidjan, quindi dalla metropoli, è quello di padre Elvio Nicoli, missionario da 22 anni in Costa d'Avorio. Ha assistito personalmente alla discesa rapidissima delle cosiddette forze del nord, che ora si sono dunque insediate ad Abidjan. Da Abenguru, una cittadina di oltre 100.000 abitanti, comunque ai confini con il Ghana, ci racconta quello che ha visto, come cambia la situazione nel paese. Con le forze repubblicane, che erano chiamate prima forze nuvelle e prima ancora ribelli, sono scesi dal nord, dove c'erano dal 2002, dall'inizio del conflitto, in 48 ore praticamente hanno fatto 300-400 chilometri a dove erano arrivare a Benguru, e hanno continuato, perché praticamente l'esercito avoriano non ha opposto una grande resistenza. E qui in città adesso assicurano loro l'ordine pubblico come possono. Purtroppo i primi giorni che erano qui ci sono stati un po' di regolamenti di conti. Un paio di volte a gennaio e a febbraio il gruppo legato appunto al nuovo presidente ha sbarrato le strade più principali della città, ma già nel mio quartiere per esempio la vita era tranquilla, ma non sono neanche venuti qui nel quartiere plateau della città. Tutta la regione è una regione basata sempre sul cacao e sul caffè e parecchio piccolo commercio, e qui ci sono molte scuole secondarie, molti licei, ci sono alcune scuole superiori come il CAPOP per la preparazione dei maestri di scuola elementare, di scuola materna, e ci sono, essendo una capitale regionale, ci sono tutte le rappresentanze dei ministeri e naturalmente c'è il prefetto della regione in rappresentanza del presidente, e quindi c'è tutto un gruppo notevole di funzionari dello Stato. Ecco, padre Nicoli, lo ricordo peraltro da oltre 20 anni in Costa d'Avorio, si può dire che Abenguru sia un po' l'altra faccia della Costa d'Avorio di oggi, cioè quella che non vediamo nella crisi alimentare di Abidjan, nella confusione delle bande, insomma una Costa d'Avorio più stabile? Vorrei anche farvi sapere che qui c'è l'organizzazione del regno Ndenye, si chiama Anindenye, c'è un re da secoli praticamente, questa organizzazione per ora tiene ancora, e il re ha svolto continuamente un'azione di mediazione e di freno comunque ai vari tentativi di, diciamo, di manifestazioni che potevano diventare violente. Per cui non ci sono state vittime qui nella nostra zona fino ad oggi. Quindi non ci sono stati neanche problemi di rifornimenti alimentari? Ma ci sono adesso, da quando Abidjan è diventata la situazione più critica, che ormai si sparava in tanti quartieri, e soprattutto che hanno occupato la strada che viene qui, la Route de l'Est, la strada orientale della Costa d'Avorio, a un certo punto fu occupata da queste forze che adesso chiamiamo repubblicane, Pro Ouattara, e quindi attualmente comunque qui si vive la giornata. Il riso ormai quasi quasi mancherà, da in qualche giorno non ci sarà più sacchi di riso e altri generi alimentari, ma essendoci tutta campagna attorno, perlomeno per ora continuano a arrivare viveri, soprattutto le banane, gli ignami, pomodori, eccetera, ma ormai non c'è più farina, abbiamo ancora qualche giorno di pane, ma se non arriva la farina bianca da Abidjan, che non saremo riforniti, non ce n'è più. Mi domando come continuerà, perché ci sono molti degli sfollati, dei déplacés cosiddetti di Abidjan, sono qui a Bengurù e nei villaggi soprattutto. E io almeno qualche volta in questo periodo ho avuto occasione di andare in qualche villaggio, anche dove avevo già fatto il mio servizio missionario in altri momenti, e ho trovato veramente soprattutto tantissimi giovani, bambini, molti non avevano mai visto il villaggio di origine dei loro parenti, per dire, adesso meno male che hanno potuto rifugiarsi lì. Si parla di più di 1 milione, hanno parlato ufficialmente l'ONU stesso, di déplacés da Abidjan all'interno del paese, oltre a quelli che hanno passato le frontiere adesso in questo, da quando ci sono stati gli scontri armati. 30 minuti in cronaca. Bentornati dunque all'appuntamento con 30 minuti in cronaca, che questa settimana ci riporta in Costa d'Avorio. La Françafrica, come ancora racconta nella canzone, nel brano altrettanto noto di Tiken Fakoly, è una degli elementi, è uno dei fattori chiave della politica dell'Africa occidentale, una costruzione che lega la storia coloniale naturalmente francese a quella appunto della Costa d'Avorio e non solo, di molti paesi dell'Africa occidentale. Parliamo anche di questo, ma non solamente, nella seconda parte dell'intervista con l'ambasciatore italiano in Costa d'Avorio, Giancarlo Izzo. La comunità italiana sono circa 600 persone, erano 600 persone, un 100-150 dopo numerosi inviti da parte nostra, ormai li conosciamo uno per uno, soprattutto quelli che abitano qui ad Abidjan, sono partiti, ad Abidjan sono rimasti all'incirca 280 persone, e di cui una sessantina dovrebbero partire con un volo C-130 messoci a disposizione dalla nostra unità di crisi e quindi con il nostro Ministero della Difesa. Ora, la maggior parte delle persone che stanno qui sono a parte ovviamente quella che è la nostra solidarietà a livello mondiale, voglio dire ONG, religiosi, ma buona parte delle persone che sono rimaste qui sono quelle che avevano avviato una piccola attività, vuoi commerciale, vuoi industriale, e avevano una casa, e quindi per loro era piuttosto difficile lasciare così il paese. Ecco perché buona parte di quelli che sono qui ad Abidjan, temendo anche quello che purtroppo sta accadendo, cioè vale a dire ci sono dei saccheggi di case, di abitazioni. Io le ricordo anche che qui è crollato anche il sistema finanziario, le banche non funzionano e niente, sono chiuse, e quindi si può comprare soltanto con dei contanti che si era messi da parte. Una situazione dunque di dissoluzione di fatto dello Stato che forse non si capisce abbastanza bene se appunto non si visualizza quello ancora una volta che è Abidjan, che è comunque una città con un suo centro importante, con i suoi grattacieli, una volta con tanto del grattacielo vuoto della Banca dello Sviluppo Africano, che è stato uno dei simboli della tragedia di questi anni. Ma questi sono anche i giorni in cui la Francia mostra i muscoli. Ma non mi può chiedere di fare adesso le pulci all'azione francese. Io quello che vorrei semplicemente dire qui, aggiunti a questo momento, cioè vale a dire arrivati a questo punto, io credo che l'azione militare, anche se con un'interpretazione un tantino, credo, estensiva della risoluzione 1975, che poi è uguale a quella 1973 per la Libia, detto tra parentesi, e era quasi diventata necessaria. La città di Abidjan in particolare, e la Costa d'Avorio in generale, non poteva più andare avanti. Quindi credo che a questo punto forse all'inizio occorreva probabilmente fare qualcosa in più o probabilmente così affiancare la Francia nella sua opera di persuasione, coinvolgimento, ecco. Credo che sia stata in un certo qual senso anche lasciata sola dall'Unione Europea e quindi la Francia ha, poiché ha qui un contingente anche piuttosto numeroso di soldati, è stato, e forse anche ovviamente per tanti motivazioni, sa, la storia spesso e volentieri è fatta a volte più da casualità che non da altre motivazioni. E a questo punto si è preferito una soluzione militare che, come dicevo prima, era divenuta quasi necessaria, altrimenti la città di Abidjan sarebbe divenuta insostenibile, la situazione nella città di Abidjan sarebbe divenuta del tutto insostenibile anche da parte nostra. Il compito adesso del nuovo presidente, del presidente Ouattara, non sarà certamente semplice. L'emergenza è soprattutto un'emergenza politica. Il compito di Ouattara di mettere insieme, cioè anche la parte avversa, sarà abbastanza gravoso. E ovviamente tutti quanti noi facciamo il tifo affinché ci riesca. L'Italia può svolgere un ruolo? Guardi, l'Italia in un certo qual senso già con immodestia già ha tentato di svolgere un ruolo, soprattutto per fare accadere un dialogo tra le due parti. Ovviamente non è che siccome i risultati non è che ci siano stati, però penso che come futuro io credo che noi dovremmo tentare di portare qui le nostre piccole e medie imprese, cioè far accadere una democrazia economica proprio per sostenere la democrazia politica, nel senso che in Africa purtroppo ci sono delle grandissime imprese di estrazione, vuoi di oro, vuoi di petrolio, ma anche le piantagioni di cacao, sono enormi estensioni e quindi il trapianto di imprenditoria piccolo-media significa anche avere sul territorio una maggiore democrazia economica che è a sostegno della democrazia politica. Su queste linee già sono in contatto con il Ministro delle Finanze, proprio per tentare di fare accadere un qualcosa di questo genere con l'immissione di imprese, di piccole e medie imprese italiane che possano aggiungere valore ai prodotti in quantità enormi che abbondano in questo paese. Bene, questo era, lo ricordo ancora, l'ambasciatore italiano in Costa d'Avorio Giancarlo Izzo, che ringrazio per essere stato con noi, come ringrazio Fabio Cantadore in regia questa sera. A voi un saluto, naturalmente un ottimo fine settimana in compagnia di Radio 24.